con Margherita Chiti di Teodora Film, che distribuisce il film L'ultima ora di Sébastien Marnier al cinema da giovedì 4 luglio 2019. Margherita, ben trovata. Trovato, buongiorno. Raccontiamolo a chi ci ascolta. Difficile da raccontare questo film, soprattutto da vedere. Essendo un thriller non si possono svelare molte cose. Diciamo che ha un inizio fulminante, una classe di adolescenti in un liceo sta facendo lezione, il professore si alza, va alla finestra e si butta di sotto. Questo è l'inizio del film. Arriva un sostituto, un supplente, e capisce di trovarsi in una scuola molto particolare con dei ragazzi super dotati, estremamente intelligenti, fin troppo preparati e colti, e iniziano a succedere delle cose molto curiose, molto particolari, un po' inquietanti a volte. E poi il resto più di tanto non si può dire perché appunto è un thriller, quindi qualunque cosa dici e poi rovini il film. Di Sébastien Marnier cosa sappiamo? Sébastien Marnier, io avevo visto il suo primo film, che in Italia non è mai uscito, si chiamava Irreprochable ed era anche questo un thriller molto affascinante, con Marina Foïs, in cui questa giovane agente immobiliare disoccupata tornava nel paese di origine sperando di trovare lavoro, faceva un'application per l'agenzia immobiliare locale dove aveva cominciato la sua carriera molti anni prima, ma le preferiscono una concorrente molto più giovane e lei comincia ad entrare in un gioco ossessivo di gelosia in cui ovviamente vuole eliminare la concorrente. È un film molto molto affascinante, un'opera prima veramente notevole, quindi lui è un regista seppur appunto giovane perché è la sua opera seconda, che ha già ampiamente dimostrato di avere davvero un occhio e una mano estremamente dotati per il thriller, per le situazioni, per i film di atmosfera. È veramente molto, perché anche L'ultima ora è un film che ti tiene attaccato veramente dall'inizio alla fine. Ecco, era la stessa cosa anche per Irreprochable. L'ultima ora che circuitazione ha avuto? L'ultima ora è stato presentato lo scorso anno al Festival di Venezia, la sezione Orizzonti. E poi è uscito in Francia, qualche altro paese europeo, mi sembra il Belgio, la Germania e poco più. E adesso esce qui da noi con un assurdo divieto, come saprai. No, questa è una cosa abbastanza assurda perché appunto mi è venuto in mente parlando dell'uscita francese, che in Francia il film ha avuto una circolazione pazzesca con le scuole, cioè un film che ha lavorato tantissimo con gli studenti Sì. e qui da noi esce col divieto ai 14, è abbastanza surreale questa cosa, però In questo senso state pensando a qualche soluzione? vabbè. Beh, sicuramente faremo un ricorso, lo facciamo sempre. Ci dispiace ovviamente, speriamo di riuscire a fare un ricorso che ci tolga il divieto in tempo per poter lavorare con le scuole, perché era uno degli obiettivi dell'autunno, insomma, si faceva uscire il film ora perché poi a settembre con l'inizio delle scuole si potevano organizzare delle proiezioni scolastiche, perché è un film che veramente si presta moltissimo, ha tantissimo da dire ai ragazzi di oggi, soprattutto per quanto riguarda proprio la generazione, diciamo, quella più contemporanea, dei Fridays for Future di Greta Thunberg, cioè dell'interesse proprio anche ecologico. Quindi, oltre ovviamente a raccontare molto altro di una certa fascia d'età, ma questo non sarà possibile con il divieto, speriamo insomma di riuscire a toglierlo. Vedremo, siamo abbastanza esterrefatti, però non è la prima volta che in Italia si succedono cose di questo genere, quindi. Oltre all'abilità di Marnier di creare atmosfere, quali sono a tuo avviso i pregi di questo film? Vabbè, un attore protagonista eccezionale, Laurent Lafitte della Comédie Française, veramente in ruolo, e vabbè, già che fosse un grande attore si era già capito, qui ha un ruolo veramente da grande protagonista, è veramente una delle sue performance migliori. Una colonna sonora molto affascinante di un gruppo francese che si chiama Zombie Zombie, che aveva già lavorato con Marnier nel precedente film. Quindi molto interessante questa continuità artistica del regista con questa band indipendente parigina. una grande bellezza visiva, cioè un film che ha un'eleganza visiva e stilistica molto affascinante. Poi, vabbè, ovviamente il contenuto, anche come accennavo prima, il contenuto relativo a questo meraviglioso movimento giovanile che finalmente si sta preoccupando del nostro mondo e del nostro ambiente, insomma, quindi riferiva. Lo racconta in una maniera molto particolare, sì. Ai limiti del cinema di genere, perché il film ha un paio di scene, per chi lo conosce, che ricordano Il villaggio dei dannati, ha dei vecchi di Lynch, quindi è un film estremamente, insomma, che strizza l'occhio al genere, anche un po' più che strizza l'occhio, è parzialmente un film di genere, ma che racconta poi una realtà attuale, insomma, come quella appunto di questa nuova generazione di adolescenti nella quale riponiamo molte speranze. Mi ha suscitato delle riflessioni dopo la visione il film, legate soprattutto poi al rapporto tra le generazioni, all'atteggiamento quasi di paura degli adulti nei confronti di questi ragazzi, dell'incomunicabilità per certi versi e dell'ignoranza rispetto proprio a quello che pensano, restano una sorta di oggetti sconosciuti. Sì, esatto, come se non ci fosse una conoscenza dei propri figli, nel senso proprio una, come se questa generazione stesse crescendo nell'inconsapevolezza di determinati percorsi da parte delle famiglie e dei genitori. Questo è molto, il film lo mette in scena anche in una maniera molto evidente e molto affascinante. Margherita, che distribuzione sarà? Molto piccola. Questo è un film che abbiamo deciso di far uscire in pochissime copie, sono 10 copie in tutta Italia, e per una volta abbiamo deciso di uscire solo in lingua originale con i sottotitoli, perché si tratta, insomma, di un film di qualità pura, ecco, come si dice con tempo, e quindi molto piccolo, ma iniziale estremamente di qualità. Allora, ricordiamo l'uscita in sala del film L'ultima ora di Sébastien Marnier al cinema da giovedì 4 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Margherita Chiti di Teodora Film, che distribuisce l'opera. Margherita, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo, grazie mille, a prestissimo. Ciao. Ciao. Ciao.